Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, buon pomeriggio, a patto che vi accontentiate di un filo di voce e di qualche colpetto di tosse causa malanno fuori stagione. Ora è arrivata in mattinata la notizia della FIA, e cioè i diffusori sono regolari, poi ve ne parlerò più in dettaglio, ma in ogni caso le scuderie si devono adeguare a uno stato quo che è stato confermato, che è stato legittimato da questa decisione. È una notizia che arriva dall'Inghilterra, esattamente come dall'Inghilterra arrivano i commenti che sono nel segno principalmente dello spot per il pallone al 4-4 di ieri sera tra Chelsea e Liverpool, a una partita che ha fatto epoca e che ha rappresentato certamente un'occasione di grande emozione. Poi al di là della qualità vera, al di là di errori che si sono visti, di un punteggio che è diventato rotondo anche grazie a qualche regalo, ma che insomma ha dato una serie di emozioni a chi ha seguito questa partita, che difficilmente si ricavano da una sfida di Coppa. Tra quelli che si sono ovviamente più emozionati, visto che era chiamato a raccontarla, è con noi Nicola Ruggero. Ciao Nicola. Ciao Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, io credo che raccontare 8 gol, raccontare in diretta gol, tra l'altro, no? Per Sky, 8 gol di quella... con quella sequenza, con quella successione e soprattutto con quel finale, credo che sia a sua volta una piccola prestazione atletica. Senz'altro, perché ho finito la telecronaca veramente con una voce che si doveva cercare all'interno delle ugole, perché l'avevo lasciata tutta, specialmente in quell'ultimo strepitoso lasso di partita, l'ultimo quarto d'ora in cui nessun cavaliere di tutti i colori, da Lampard che sul 3-2 sembrava oramai aver dato al Chelsea in mano i biglietti per un simpatico viaggio infrasettimanale sulle Ramblas di Barcellona, al Liverpool che da agente di viaggio ha continuato a chiedere se quei biglietti fossero validi, e chissà quanto ha rimpianto Benitez di aver sostituito, a mio parere troppo presto, Mascherano e Torres, quando il Liverpool a 8 minuti dalla fine si è trovato sul 4-3, quindi si è trovato nuovamente a un solo gol dalla qualificazione. A mio parere è un errore di Benitez, perché Mascherano sta al Liverpool quanto Cambiasso sta all'Inter dal punto di vista dell'equilibrio della squadra. E poi uno come Torres, per quanto in cattiva serata, beh, insomma, a 8 dalla fine di una partita che vale l'ingresso in semifinale, io non lo tolgo mai, salvo che si sia infortunato o abbia qualche problema particolare. Quindi a mio parere un po' di rimpianto da parte di Benitez ci deve essere. Resta negli occhi una partita meravigliosa, come hai detto giustamente tu, favorita anche da molti errori. Ieri ha disputato una partita pessima, a mio parere la peggior partita della sua storia, Petr Cech, che per solito sì, è un portiere invece estremamente affidabile, ne ha fatte di ogni, a partire soprattutto da quella punizione di Fabio Aurelio che ha dato i like artificiali. A me è rimasta per un attimo l'impressione, la sensazione di aver esagerato con l'aggettivazione, siccome non amo molto raccontare lo sport con eccesso di enfasi, che invece qua resta uno sport abbastanza diffuso a Sky, io preferisco più riaccordarmi con il grande Giuseppe Albertini, che per chi non lo sapesse è stato un mitico telecronista della Svizzera italiana, certo, per diversi decenni. Però in effetti, ripensandoci, io credo che sarà una partita di cui parleremo ancora per molti anni, e magari molto più di tante finali che hanno sì assegnato una coppa, ma sono state abbastanza insipide. Tu hai parlato, se il riferimento è a Giuseppe Albertini, stiamo parlando di un mito, stiamo parlando anche secondo me del miglior telecronista di sempre, scomparso ormai da una ventina d'anni, ma parliamo di un fuoriclasse con il quale i paragoni sono per forza impegnativi. Mi pare però che è vero che c'è stato un eccesso di ci sono stati eccessi di retorica, ma continuano a esserci, perché io sto leggendo la rassegna stampa dell'inglese, sto leggendo sunti del Daily Telegraph, del Times, del Guardian, e mi sembra che anche lì non stiano andandoci leggeri con gli aggettivi. In base al tuo racconto mi chiedevo perché di quelle due sostituzioni di Benitez, che in effetti hanno molto colpito anche me, perché insomma, prima di levare due giocatori di quella classe, di quel temperamento, perché ha fatto questo? Perché stava pensando al campionato a quel punto e l'aveva data per persa? Ecco, a mio parere è l'unica spiegazioni. Io subito dopo la partita ho telefonato a Massimo Marianella, che era inviato sul posto e raccontava invece la partita per intero su un canale Sky, e io ho fatto la tua stessa domanda, cioè mi sono chiesto se Mascherano e Torres non avessero qualche problema, e invece Massimo mi ha detto: guarda, la mia sensazione è che lui a un certo punto l'abbia data per persa e ha pensato al campionato, che è l'unico trofeo che a questo punto è ancora a disposizione del Liverpool, che è già stato eliminato in precedenza anche dalla Coppa d'Inghilterra. Ripeto, a mio parere è stato un grosso errore, anche perché quanto sia importante Mascherano l'ho visto nella partita di andata, dove l'argentino non c'era e la Chelsea ha spadroneggiato nella zona centrale, che poi è stata quella nevralgica per decidere la partita di Anfield. Quanto a Fernando Torres, Benitez gli ha messo dentro, non so, non Tevez come fa il Manchester United, o magari il ragazzino Makeda, che praticamente è il remigio del calcio, perché trasforma in oro ogni palla che gli capita dalle sue parti, ma ha messo dentro il francese Ngog, che è un ragazzo dell'89, francamente un talento che non mi sembra destinato a una strepitosa carriera, soprattutto un giocatore estremamente inesperto. Io, ripensando a quello successo sul 4-3, prima del gol di Lampard del 4-5, con un paio di palloni che sono rimbalzati nell'area del Chelsea, beh, uno come Torres, niente mi toglie dalla testa che uno di questi palloni poteva spedirlo alle spalle di Cech. E tra l'altro ha rischiato poi anche il gol del 5-4 ed è stato strepitoso in Siena. Io non ho mai visto fare una parata di testa di guardando sì, a tuffarsi e a tifiare nell'angolino un pallone che, attenzione, avrebbe ancora potuto dire qualcosa, perché si era al 90esimo, certo, ma se la recuperano Liverpool, al Liverpool mancava di nuovo un solo gol, e il Liverpool ha questa strepitosa media nel suo campionato in Premier League, ha segnato 8 reti nei minuti di recupero. Però, quindi insomma, ci stava tranquillamente ancora la rimonta. Pazzesco. Io credo che la suggestione principale di ieri sera e il merito di questo irriducibile Liverpool sia stato soprattutto in quella fase finale, perché è vero che all'inizio provarci era doveroso, arrivando da un 1-3 in casa, ed è vero anche che il primo gol è stato oggettivamente un grande regalo. Il secondo è venuto su rigore, anche se il rigore c'era, ma insomma, quel 2-0 era già una cosa da Liverpool, però insomma, era una cosa da Liverpool, diciamo, agevolata. Poi, quando hanno cominciato a regalare anche Reina, e addirittura il risultato è stato capovolto sul 3-2, io credo che nessuna squadra nostra, ecco, questo almeno direi, avrebbe più avuto la forza, no? Stai perdendo 3-1 chiuso all'andata e stai perdendo 3-2 in quel momento, e anche se ci hai provato in tutte le maniere, a quel punto la partita è finita. No, questi vanno su 4-3, e su 4-3 l'83esimo hanno 7 minuti più recupero per mandarli a casa, perché a quel punto i gol che valgono doppio erano superiori per loro. Io in questo credo che ci sia la grandezza di questa squadra, che non voglio dire che a distanza di anni rivaluta il Milan che subì quella rimonta, ma è vero che l'irriducibilità fa veramente parte del DNA del Liverpool. Esattamente, Gigi, qui c'è veramente la storia del Liverpool che ieri sera i Reds hanno fatto pesare. C'è un coro di scherno che del Liverpool cantano quelli del Chelsea quando hanno rivinto il loro primo titolo nel 2005, a 50 anni di distanza dal loro precedente successo, ed il coro è: dove siete stati negli ultimi 50 anni? Mentre il Liverpool faceva storia dominando in Europa tra gli anni 70 e gli anni 80 con 4 Coppe dei Campioni, il Chelsea era una squadra che faceva lo yo-yo, come dicono in Inghilterra, tra la massima serie e la categoria inferiore. È nel DNA del Liverpool quindi considerare un po' l'Europa il giardino di casa e non considerare preclusa nessuna impresa. Attenzione, ci siamo dimenticati fino adesso di ricordare che mancava un certo Steven Gerrard al Liverpool, che era infortunato e non ha potuto essere della partita, quindi se l'impresa era improba prima, diventava praticamente impossibile dopo. Tu giustamente hai parlato della strepitosa rimonta con il Milan nella finale di Istanbul, in cui praticamente il Liverpool segnava, il Milan non faceva tempo a rimettere il pallone sul dischetto del centrocampo e il Liverpool ha già fatto un altro gol. Certo. Ma nella stessa edizione della Champions League, il Liverpool nei gironi di qualificazione sarà tornato nell'ultima partita con l'Olympiacos, con la necessità di vincere con 2 gol di scarto. Ebbene, alla fine del primo tempo il Liverpool perdeva 1-0, ha dovuto segnare 3 gol nel secondo tempo, ha fatto 3 gol negli ultimi 20 minuti, 2 gol negli ultimi 5, il terzo naturalmente l'ha firmato, guarda caso, Steven Gerrard, per cui insomma è veramente una squadra che non considera mai morta la partita, se non quando l'arbitro fischia da 3 volte. ho l'impressione anch'io. Maurizio Robaldo scrive: ma come fa Nicolò Roggero ad avere ancora voce dopo ieri sera? Mentre Lori da Milano dice: un Chelsea così non si era mai visto, tantomeno all'epoca di Mourinho, che era di una noia mortale. Ma questa è un'altra, è un altro genere di considerazione. Oh, abbiamo ancora due capitoli, sempre che possiamo continuare a interferire col tuo viaggio. In corso, sì, tranquillamente, mi tenete compagnia, poi rassicuro anche la stradale, se fosse in ascolto io vivo voce, perfetto, non regola. Allora io farei dei due capitoli, affronterei prima quello molto doloroso, perché oggi tra poco meno di un'ora, le 15:06 ricorre per la precisione il ventennale di Sheffield, di quei 96 morti schiacciati nella semifinale Liverpool-Nottingham, semifinale di FA Cup. Come possiamo ricordare a distanza di 20 anni quella tragedia? Dunque, era l'epoca più nera quella per gli stadi e per il calcio inglese, era l'epoca degli hooligans. 4 anni prima di quella tragedia ci fu la strage dell'Eseli, 39 morti prima della finale di Liverpool-Juventus. Anche allora si combinarono una serie di fattori, la violenza degli hooligans del Liverpool unita all'organizzazione di una finale a dir poco indegna, degna di un torneo parrocchiale, non certo di una finale di Coppa dei Campioni. Era l'epoca in cui gli inglesi erano addirittura fuori dalle coppe, ma evidentemente questo non era ancora abbastanza direzione, tanto che quel giorno a Sheffield si presentarono molti tifosi del Liverpool privi di biglietto. La polizia aprì ugualmente i cancelli dello stadio, quindi furono ammassate una quantità di persone impressionante nella gradinata dei tifosi che era riservata ai tifosi del Liverpool. All'epoca in Inghilterra erano state, proprio a causa degli hooligans, erano state montate le protezioni, quelle che ad oggi non ci sono più, tra il campo e gli spalti, e per cui la gente finì schiacciata, soffocata contro i cancelli. Nessuno si accorse immediatamente di quello che stava avvenendo e qualcuno riuscì per fortuna a scavalcare la recinzione e a salvarsi gettandosi in campo, ma purtroppo per 96 persone non c'è più niente da fare. Io ricordo, insomma, ero già appassionato di calcio inglese all'epoca, le notizie drammatiche che arrivavano prima di quella semifinale, appunto, tra il Liverpool e il Nottingham Forest. La partita addirittura incredibilmente cominciò, poi finalmente al terzo minuto qualcuno si accorse che non era possibile proseguire, che stava avvenendo il disastro, e appunto perirono 96 persone. Tra questo l'ha ricordato ieri in una toccante intervista anche il cuginetto di Stephen Gerrard, che all'epoca aveva 9 anni e che appunto ha voluto ricordare questo suo sfortunato coetaneo, questo suo parente, che fu tra le vittime della tragedia di Hillsborough. Mentre tu raccontavi, Nicola, io stavo scorrendo il bel articolo che Federico Pistone ha scritto sul Corriere della Sera, dove tra l'altro ricorda che stasera alle 20 su History Channel ci sarà un documentario durissimo, perché quelle scene, perché quelle immagini testimoniano scene, scrive Federico, di violenza assolutamente inaudita. Di sicuro, come il Corriere della Sera scrive oggi, nessuno, a proposito di Italia, nessuno ha ancora pagato il conto di quella tragedia dovuta a imperizia collettiva e a scarsissimo senso di responsabilità. Ranieri toglie Trezeguet, scrive Gabriele da Torino, Benitez toglie Torres, ognuno prima o poi la sua perla la colleziona. Io credo che quella di ieri sera sia ancora più grave, quella di Torres ieri, dove ho sentito anche l'opinione di Nicola Roggero, al quale domando perché partita è di servizio stasera. Dunque stasera seguirò Porto Manchester, e visto che tutti parlavano la serata di stasera, quella che avrebbe riservato emozioni, perché sia Porto Manchester che tutto sommato anche via Real Arsenal sono due gare in equilibrio, quello che non erano dopo l'andata Liverpool-Chelsea e poi Barcellona-Bayern, bene, se l'antipasto è quello di ieri sera, stasera mi aspetto veramente dei giochi pirotecnici che escano dallo stadio del Dragao e poi anche dall'Emirates dell'Arsenal. Io dopo la partita di andata, vedendo giocare in quella maniera il Porto e soprattutto non vedendo giocare il Manchester, ero quasi convinto che per il Manchester ci fossero pochissime chance di passare. Ho anche in basso, lo ricordava ieri Fabio Tavelli, una cena con lui, certo, che ha convinto che invece passava il Manchester, io invece avevo preso il Porto. Quando però ho saputo che rientra del rientro di Rio Ferdinand, l'ho immaginato. Ecco, per l'andata si è sentito come quanto sia importante. Rio Ferdinand stadio mi conferma il vecchio detto: l'attacco può vendere i biglietti, ma la difesa va a vincere le partite. Il vero pallone d'oro del Manchester è Rio Ferdinand, più che non Cristiano Ronaldo. Ecco, allora comincio a pensare che quella cena in Fiera di Barbaresco la pagherò io. Credo anche volentieri, no? Da vecchio tifoso dello United. Però anche se mi farebbe piacere il passaggio del turno del Porto, per un motivo: non mi piace vedere una nazione che domina, come è accaduto negli ultimi anni all'Inghilterra. Mi piace, insomma, che viaggi un po' la gloria della Champions League. E poi perché il Porto è una squadra che non è costruita con i miliardi di tanti club europei. Quando le formazioni italiane si lamentano di non poter competere finanziariamente con le squadre inglesi, prendo un esempio dal Porto, che non è certo una squadra costruita con dei mezzi faraonici. Il 2-2 dell'Inter l'ha segnato Mariano Gonzalez, scarto del Palermo prima e dell'Inter poi. Certo. E di conseguenza, insomma, si possono fare cose importanti anche senza investire dei grossi soldi. Poi mi piace la calma di questo Gesualdo Ferreira, l'allenatore, che purtroppo stasera sarà squalificato, quindi vedrà la partita dalla tribuna. Però è uno di quelli che in panchina non si agita, non fa il matto, e a me gli allenatori così tendono a ispirare fiducia, molta simpatia. Simpatia, ma anche fiducia. Personalmente anche più fiducia. Anche Hiddink e Benitez li vedevo abbastanza sereni in panchina. Casualmente sono due che la Coppa dei Campioni l'hanno già vinta. Certo, sono discreti entrambi. Come ha fatto, domanda Omar da Bologna, un allenatore come Scolari a dimenticarsi di un campione assoluto come Drogba? Ha ragione l'ascoltatore. Lui gli preferiva nel K. In realtà Hiddink ha poi dimostrato che i due non, la presenza di uno non elide quella dell'altro, tanto che ieri, nel momento di difficoltà del Chelsea sotto di 2-0 dopo mezz'ora, Hiddink ha pensato bene di levare Kalou e di metterla nel K, e in qualche modo i due si alternavano come prima punta. Quando uno andava davanti, l'altro si spostava sulla fascia. Il gol dell'1-2 è nato proprio da una di queste alternanze, con Anelka che si è portato al cross e Drogba che l'ha messa in dentro dalla linea di fondo, e credo che poi dovrà anche pagare una cena a Pepe Reina, il portiere del Liverpool, se non è proprio un ingrato. Però insomma è la dimostrazione che Hiddink le partite le vede come, e quando magari non le vede bene dall'inizio le sa correggere. Detto questo, non è l'unico errore di Scolari, che probabilmente si è messo contro buona parte dei totem dello spogliatoio. Ha portato un giocatore come Deco, che evidentemente al Chelsea serviva poco, tanto che oggi è stabilmente in panchina. Ha preso in prestito dall'Inter un giocatore come Quaresma, che evidentemente l'allenatore che lo fa giocare dovrà crearselo su misura, perché ha girato un po' tutta Europa e continua a stare nella stessa posizione la panchina. Quindi alla fine Scolari ha finito per pagare tutto questo. Direi di sì. Mi piace questo messaggio di Davide da Prato. Dice: quando Juventus-Inter finirà 4-4 con quell'agonismo e quella spensieratezza, vorrà dire che saremo sulla buona strada, e quindi passerà qualche tempo, no? Prima di arrivare su quella buona strada, non tanto per il 4-4, che può benissimo uscire, non certamente per l'agonismo, ma per quella spensieratezza, per quella lievità con cui viene vissuta un'epopea calcistica di quel genere. Che probabilità ci sono, domanda conclusiva a parer tuo, che questo appello di Obama per riavere i mondiali negli Stati Uniti al più presto possibile, e quindi comunque non prima del 2018 o del 2022, possa venire accolta dalla FIFA? Ma la prima esperienza negli Stati Uniti è stata drammatica dal punto di vista degli orari, nel senso che imponendoli le televisioni europee si è venuto per giocare delle partite a mezzogiorno a 40 gradi. A mio parere a 40 gradi non si può fare uno sport di resistenza e di fatica come il calcio, se non sfalsandone i valori tecnici, anche se poi la finale, per carità, Brasile-Italia è stata tra le due squadre che hanno vinto più volte il mondiale, quindi in questo senso niente da eccepire. Però io ricordo francamente un'edizione abbastanza modesta del torneo americano. Certo, dal punto di vista dell'organizzazione sportiva, degli stadi, degli impianti, delle garanzie, gli Stati Uniti possono tranquillamente candidarsi. Tra l'altro il loro calcio, non tanto a livello di organizzazione loro di campionati, la loro lega, nonostante l'arrivo di Beckham, è rimasta quella che era negli anni 70 con i Cosmos, un riciclare dei vecchi campioni che non hanno più nulla da dire in Europa e che raccattano gli ultimi dollari nell'avventura oltreoceano. Però va detto che è molto cresciuta in compenso la loro nazionale, che insomma i mondiali non fa più la figura della tappezzeria. Io ricordo che nel 2002 arrivò addirittura nei quarti di finale, battuta soltanto dalla Germania, e certamente i buoni risultati della nazionale potrebbero accreditare ulteriormente le speranze di candidatura americana per l'organizzazione. È ora di far riposare la voce in vista di stasera, Nicola, secondo me. Grazie. Beh, è stato comunque un piacere dialogare con te, con gli ascoltatori, ma avete dato compagnia per buona parte del viaggio. Grazie a Nicola Ruggero, chiudiamo questo collegamento. Adesso tocca un pochino a voi parlare, dopo avervi ricordato che domani sera si gioca Udinese Verde Brema, può darsi sia l'ultima. Sia l'ultima tappa, l'ultimo episodio dell'avventura friulana in Coppa UEFA, ma non è detto, perché in fondo è vero che un 3-1 all'andata non è certamente un buon risultato, ma un 2-0 al ritorno, pur richiedendo insomma una mezza prodezza collettiva, è comunque alla portata dell'Udinese. Ci sono i precedenti semmai che non autorizzano grandissime speranze, perché è vero che il Verde in Italia, sto guardando sulle curiosità appena uscite dall'Ansa, il Verde in Italia finora ha giocato 12 partite e 6 le ha perse, 4 le ha pareggiate, ed è ovvio che le due vittorie e i 4 pareggi ampiamente gli assicurerebbero il passaggio del turno. Ma è ancora più impegnativo il fatto che l'Udinese giochi per la quinta volta contro una tedesca in gare ufficiali in casa e non l'abbia mai vinto finora, con 2 pareggi e 2 sconfitte. Sentiamo Luigi da Milano, buongiorno. Luigi mica tanto, mi pare. Luigi non mi sembra un granché come forma. Allora sentiamo Roberto dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Ho sentito in apertura della vostra trasmissione sia lei che il suo collega che era presente ieri sera. Sì. Che Benitez avrebbe fatto un errore togliere Mascherano e Torres. Sì. È tutto da provare, perché sempre i conti tolti Mascherano e Torres sono tornati in partita. Sì, sono tornati in partita, è vero. Però poi insomma, nel momento del bisogno supremo, insomma, la qualità di questi due è superiore a quella di altri, no? Tutto da provare. No, ma certo, ma come sempre, lei ha ragione, come sempre quando si parla di cose insomma, di sostituzioni, avvicendamenti, ho fatto così, bisognava fare cos'ha, cioè le controprove non ci saranno mai. Diciamo che è stato comunque curioso vedere uscire dal campo due giocatori di quella personalità, forse più ancora Mascherano a parer mio di Torres, perché Torres effettivamente non era in una gran serata, e invece insomma, è stato comunque sorprendente. Voleva dire in quel momento lanciare un messaggio di crederci un po' meno, però giustamente lei dice senza quei due è scattata l'ennesima rimonta che a momenti arriva a buon fine. È vero anche questo. Luigi ha chiamato da Milano, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a lei, tutti i soldatori. Sono un po' in controtendenza, nel senso che sono felicissimo quando vedo questi match qua, mi esalto, sono un appassionato, mi piace molto il calcio inglese, quindi mi entusiasmo insomma questi match qua, visto che qua in Italia se ne vedono pochi, sono magari le ultime 3-4 giornate dove ormai i giochi sono fatti, si gioca un po' così, un po' come poi si dovrebbe veramente giocare. Però ecco, io dico questo, secondo me il Liverpool non è il Liverpool che abbiamo visto negli ultimi 2 anni in Champions, sicuramente, nel senso che è una squadra che ha perso un po' la bussola, specialmente la fase difensiva non la fa più bene come la faceva prima. E la fase offensiva, chiaramente, quando riesce a farla con continuità, vedi per esempio ieri sera quando si è trovato in emergenza, quindi era sotto, era in difficoltà, ha tirato fuori un po' meglio di sé. E quindi ecco, il Liverpool io lo vedo un po' in calo anche dal punto di vista tecnico, insomma, in certi uomini ha perso un po', e poi non riesce a fare più certe cose che faceva con continuità. Per esempio in casa io l'ho vista un po' male col Chelsea, soprattutto nelle cose che lei riesce a far meglio, cioè nel senso a portare via palla agli avversari col pressing e ad usare molto bene gli esterni. Infatti nella partita di andata Benitez aveva provato 3 volte gli esterni, aveva cambiato 3 volte gli esterni, specialmente sulla fascia sinistra, aveva provato persino Dossena, ma non riuscivano mai a sfondare perché non riuscivano mai ad andare in sovrapposizione e quindi a creare quelle palle diciamo pericolosissime che che fanno del Liverpool insomma una squadra molto molto forte, visto che non ha No, d'accordo, d'accordo Luigi, però io credo questo, che nella fase difensiva siamo d'accordo tutti, soprattutto in questa andata e ritorno col Chelsea, se prendi 7 gol in 2 partite, è ovvio, di cui 3 in casa, è ovvio che qualcosa nella fase difensiva non funziona. Sul tasso tecnico e sul resto ci andrei un po' ad agino, perché è anche vero che il Liverpool di quest'anno è in corsa per il titolo, cosa che negli ultimi anni invece non era. Il Liverpool dello scorso anno non lo ricordo, come se andiamo un pochino più indietro, ma quello dello scorso anno non lo ricordo poi superiore particolarmente a questo qua, anche se siamo di nuovo assolutamente nel campo dell'opinabile. Lorella scrive: lei che difende con vigore il buon Ranieri, ha visto giocare lo spagnolo del Liverpool, ora mi dirà che è meglio Paulsen di Xabi Alonso. Cara Lorella, è meglio Alonso di Paulsen, su questo non c'è discussione. Bisogna vedere se è poi proprio vero che alla fine è stato Ranieri a dire voglio Paulsen e non voglio Xabi Alonso, perché data la differenza di costo tra i due io qualche piccolo dubbio ce l'ho, fermo restando che non ho mai difeso con vigore e non difenderò mai con vigore Ranieri. Dico soltanto che lo difendo se c'è vigore è pari, no, non al vigore, ma alla tentazione di linciaggio addirittura che c'è da parte di certi media nei confronti di Ranieri fin dall'inizio della stagione. Oh, torniamo in onda con una notizia che arriva da Torino. Blanc, l'amministratore delegato della Juventus, ha annunciato che Ranieri sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. C'erano voci di segno contrario negli ultimi giorni e stamani in particolare. Blanca ha detto: Ranieri è il nostro tecnico e lo sarà anche nella prossima stagione, qualsiasi risultato otterremo quest'anno. Questo è accaduto a margine della presentazione in una nuova partnership, di una nuova sponsorizzazione che riguarda la Juventus. Blanc ha continuato dicendo che 10 punti di differenza sono tanti, ma la matematica dice che siamo ancora in gioco. Il nostro obiettivo è lottare fino all'ultimo minuto, c'è ancora la Coppa Italia. Errori possiamo averne commessi, ma il nostro obiettivo è sempre guardare avanti e ottenere il meglio. Di mercato, a proposito di Diego, di mercato parleremo a giugno. Tocca a Giancarlo, ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno Giancarlo. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e poi scusi l'emozione. Sì. Volevo chiedere due cose. Noi il campionato inglese è talmente magnificato, però tra allenatori stranieri, giocatori stranieri, l'inglese mi sa che c'ha ben poco. E poi la tanta bisettata Italia, le ricordo che ha vinto 4 campioni del mondo, sì, erano 2 negli anni 30, però 2 recentemente. L'Inghilterra ne ha vinto 1, discutibile, sì. Perché la finale, lei se la ricorda sicuramente meglio di me, non è molto chiara. Quindi non è che dobbiamo sempre dire che gli altri sono meglio di noi. Perché insomma vince 4 campioni del mondo, non credo che solo il Brasile c'è superiore. No, beh, ma se si parla di nazionali, a parte che poi di nazionali si parla di nazionali una volta, perché adesso il discorso delle nazionali di oggi è un tantino cambiato, no? Ieri sera, perché sennò oggi se ci fosse un parametro, cioè se ci fosse una conseguenzialità, per esempio tra il rendimento dei club nelle coppe e quello delle nazionali, beh, insomma, credo che da anni l'Inghilterra dovrebbe spopolare nel mondo, e invece l'Inghilterra negli ultimi anni ha sempre soltanto profondamente deluso e si è affidata a capello per provare a risalire. Ma credo che ieri sera in campo tra Chelsea e Liverpool ci fossero 2 soli giocatori nazionali di capello, non perché capello gli altri li ignori, ma perché gli altri non sono inglesi, quindi insomma questi sono discorsi secondo me un pochino superati da quel punto di vista. Dopodiché non è che il calcio italiano si debba abbattere più di tanto, il calcio italiano fa da spettatore e basta, e mi sembra che con la sola eccezione del Milan in questi ultimi anni questa ormai sia una linea di tendenza abbastanza consolidata, insomma, che non è colpa di nessuno. Io sentirei ancora 2 ascoltatori e poi darei la parola a Papadopoulo, e cioè al debutto del nuovo tecnico, alla presentazione del nuovo tecnico che la società ha scelto per la panchina del Bologna. Tancredi ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Innanzitutto bravo per il libro, l'ho letto. Tempo fa la chiamai e dissi che era lì sulla scrivania pronto per essere letto. Ho trovato il tempo e l'ho letto in due giorni. Grazie. Bravo. Sta ai livelli quasi, perché sennò poi lei si monta la testa. Sì. Di Soriano e di Edoardo Gajano. Però. E quindi continui così. Ma questo è merito di Rocco, non è merito mio. Appunto, trago spunto di Rocco. Lei ha tratto e lei ha disegnato una figura di un allenatore con forte personalità. Sì. La personalità era talmente forte al punto di delegare ai giocatori in campo l'organizzazione della partita al momento. Uh-huh. Ora, trago da questo spunto per dire che secondo me, da juventino, Ranieri è un allenatore senza personalità, o meglio, mi spiego, con una personalità non a livello di Capello, Lippi e dello stesso Mourinho, per quanto opinabile possono essere certe sparate di Mourinho, ok? Ora, io dico questo, mi ha dato una bruttissima notizia dicendo che Blanca ha confermato Ranieri il prossimo anno. Io dico solo una cosa, nella partita contro il Genoa della scorsa domenica, dello scorso sabato, in cui noi dovevamo vincere la partita, la squadra che doveva scendere in campo doveva essere con un interditore come il ragazzo lì della Juve, a fianco Nedved, e poi dovevamo giocare con Giovinco, Iaquinta, Trezeguet e Camoranesi allo stesso tempo. Si era visto, perché dovevamo vincere quella partita, noi dovevamo imporre la personalità della squadra più forte, che gioca come a Torino anche fuori, perché noi siamo la Juve, invece Ranieri... Credi, scusa un momento solo, sì. Ranieri è quello che D'Annunzio definiva le persone senza, per usare un gergo calcistico, senza palle, cioè un cagoia. Punto e basta. E mi dispiace se fossi esagerato, ma le lascio lei la parola. Un tantinello sì, Tancredi, anche perché lei parte da un presupposto che non sta in piedi, che in questo momento la Juventus sia più forte del Genoa. In questo momento... in campo, dai. Ma la Juventus non è assolutamente più forte del Genoa oggi. In questo momento il Genoa sta giocando un calcio migliore di tutte le altre, Inter compresa, e se il Genoa la partita ce l'ha in casa e la squadra avversaria si presenta con, come ha detto lei, Giovinco, Iaquinta, Camoranesi, non ho capito chi altro, e Trese, che è molto probabile che con quel centrocampo del Genoa la palla non la veda mai, l'ha già vista abbastanza pochino così. Ma la palla non la vera mai, fermo restando che il problema della Juve non è quello, non è chi schierare davanti, perché chi schierare davanti ce l'ha sempre, e due gol la Juventus è riuscita a segnarli anche l'altra sera beccandola poco. Il problema è che ha degli sventurati dietro, ma proprio dei disgraziati, se parliamo dal punto di vista tecnico e tattico, ed è quello il problema. Ora, fino a quando la freschezza atletica gli ha consentito di difendere alto, come hanno difeso alto per quasi una stagione intera, senza sbagliare o sbagliando il meno possibile, ce l'hanno fatta, attuando questa tattica del fuorigioco altissimo. Quando adesso le tossine hanno inciso sui riflessi, ogni tanto sbagliano, come hanno sbagliato in occasione per esempio nel gol del 3-2, ma dire che, cioè, attribuire tutto questo, lo si può benissimo attribuire a un allenatore. L'allenatore in fondo è sempre responsabile ultimo di una squadra, ma io sinceramente continuo a pensare al contrario di lei e di quelli che la pensa come lei, nel senso che lei dice con una squadra come la Juve Ranieri è scarso, inadeguato. Io dico con una squadra come la Juve Ranieri ha cavato sangue alle rape, questa è l'ottica diversa. Enzo ha chiamato da Rovigo, buongiorno. Pronto? Dica Enzo. Pronto, buongiorno. Mm-hmm. Senta, io ho 88 anni. Però? E tifo Juve da quando avevo 8 anni. Quindi sono 80. I Combi, Rovetta, Caligari e via via. E sono rimasto affezionato a quel periodo. Mm-hmm. Oggi come oggi, non so se lei mi riesce a capire, non sento più la Juve di quei tempi. Mi capisce? Riesco a spiegarmi? Ma riesce a spiegarsi, sì, ma non è inedito questo. Cioè, ci sono stati 10 anni in cui la Juventus era, per esempio, visto che lei ha 80 anni di tifo juventino sulle spalle, io ricordo 8 anni, ma dall'86 al 94 fu un'eclisse molto più lunga di quella che c'è attualmente, che non mi sembra nemmeno un'eclisse, o sbaglio? Ma dico, attualmente non riesco a pensare la Juve di quei tempi, non riesco proprio. Che cosa si può fare, Enzo? Lo so, ma non so se lei mi capisca di questo. Non sento più l'amore che avevo allora. Sento, sono sceso nell'inferno con la Juve. Sono risalito poi. Però in questo periodo sento che non riesco più a sentire la Juve di quei tempi. Beh, sia un po' non so, in mano della gente così. Ma insomma, Enzo, io questo... Io non voglio certamente difendere, non sta a me difendere, prendere difese dei dirigenti attuali. Calcoli che è certamente in mani migliori rispetto a quelli, alle mani che l'hanno portata in Serie B, che sappiamo anche a chi appartenevano, mani e cervelli. E quindi insomma, da lì bisogna risalire. Quindi prima o poi accadrà. Enzo, continui a tifare per la Juventus, perché dopo 80 anni di tifo e a 88 stagioni non vedo perché negarsi questo piacere. Mauro Padova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Allora, io qualche settimana fa ero intervenuto per quanto riguardava Ranieri, che era un mediocre allenatore alla vigilia della partita col Chelsea. La mia convinzione resta sempre la stessa: non ha avuto il coraggio di levare certi senatori, non ha avuto il coraggio di inserire certi giovani con continuità che sono il futuro della squadra, e di conseguenza la mancanza di Ranieri ha messo parte, diciamo che mi dispiace sia successo, ma non era una posizione particolarmente originale, insomma. Oltretutto era già stata espressa, lo ha ricordato Mauro stesso qualche settimana fa. Aspetto ad avere un pochino più di voce uno di questi giorni, no, non certamente oggi, per leggervi un servizio apparso stamane sulla Stampa, veramente esilarante. Il titolo è "Quando l'Inter ci scippò lo scudetto", ed è una storia che arriva da Vercelli. Una Provercelli che dice: non festeggiate per la vittoria di 100 anni fa, segue un'esilarante ricostruzione di una storia di 100 anni fa in cui non si misero d'accordo su che data giocare. Allora la Provercelli mandò in campo i ragazzini, e adesso la Pro chiede un torneo amichevole come compensazione, come risarcimento di quello che a distanza di 100 anni ancora reputa uno scippo. Mi pare che nei giorni scorsi sia stata quanto mai esilarante, no? la richiesta di quel deputato inglese, eurodeputato inglese, che si è svegliato una mattina e ha detto: la finale di Coppa col Milan del 73, per noi del Leeds subimmo una rapina. Insomma, morale, bisogna riaprire il dossier su quella partita. Bene, a distanza di 36 anni, ripeto, era già abbastanza esilarante. Questa storia che ne ha 100 è di una discreta comicità, almeno a parer mio. Tre giorni prima di Juventus-Inter, alla comicità ci aggiungerei anche qualcos'altro. Tocca a Mauro dalla provincia di Padova. Buongiorno Mauro. Buongiorno Garanzini, era caduta la linea, quindi mi hanno ricontattato. Sì. Allora, le stavo dicendo di Ranieri che... Ecco, in sintesi mano... però, perché non... No? Cioè, l'ha già detto... Comunque, sì, dica. Sì, che una buona mano l'ha messa anche lui, perché... non avendo levato certi senatori che sono in condizione pessima in questo momento, citandone uno tra i tanti, Del Piero, che non è più il Del Piero degli ultimi anni, già da qualche mese. Buffon non è più il Buffon numero uno, perché è diventato un portiere come tutti gli altri. Quindi penso che Ranieri abbia messo una buona mano in tutto questo, e di conseguenza bisogna fare anche un po' di mea culpa per quanto riguarda tutto quello che è accaduto. Si può parlare di scudetto, si può parlare di tante cose, però con questa squadra sinceramente non si va da nessuna parte, perché tu non puoi perdere i punti con la Sampdoria, non puoi perdere i punti... Ma insomma, non si va, Mauro, non si va da nessuna parte se l'imperativo categorico è vincere, no? Alla fine vince uno solo. Se l'imperativo categorico è quello, è un conto. Se si tratta di partecipare con dignità e con decoro, a me sembra che quest'anno nel rapporto qualità-prezzo abbia fatto meglio l'Inter di Ranieri, abbia fatto meglio la Juve di Ranieri dell'Inter di Mourinho. Poi è ovvio che le opinioni sono libere. Domani ascolteremo a questo proposito e su altri argomenti quella di Adalberto Bortolotti, che mi sembra particolarmente autorevole. Adesso io farei un po' l'intervallo anche vocale per ascoltare il commento di Mario Podronieri, del nostro esperto di Formula 1, ricavato da Flavio Suardi, su questa decisione di stamane del Tribunale della FIA. È chiaro che una decisione di questo tipo, abbastanza impegnativa tutto sommato per chi resta sconfitto, perché comporta naturalmente delle modifiche sostanziali a una parte importante della vettura, così come lo stesso sarebbe successo se fossero stati sconfitti quelli che erano stati, diciamo, criticati. E la decisione in sé si poteva intuire che forse sarebbe stata a favore, perché non bisogna dimenticarsi che sia i giudici, i commissari del primo Gran Premio, sia quelli del secondo l'hanno approvato, e non dimentichiamoci che Charlie Whiting, che è il collo di bottiglia di tutte le soluzioni che deve poi prendere la federazione, è contemporaneamente responsabile della sicurezza, responsabile direttore di corsa e responsabile tecnico per la federazione, quindi aveva una somma di incarichi, per cui nel momento in cui lui diceva che a suo modo di vedere erano giusti, era già un po' orientare alla soluzione, che naturalmente poi poteva avere altre soluzioni, perché entra in gioco anche elementi di carattere politico nell'ambito di una federazione che francamente avrebbe bisogno di essere riformata un po' come la Formula 1. Adesso per la Ferrari e per le squadre che hanno optato per questo ricorso, i passi da compiere quali sono? Cioè, si adegueranno a questo punto anche loro ai diffusori e soprattutto avranno tempo per recuperare il terreno perduto? Ma io penso di sì, innanzitutto perché credo che è già un mese che stanno studiando che soluzioni adottare. Chi ha dei problemi grossi è la Red Bull, nella quale Adrian Newey ha studiato una sospensione posteriore, diciamo capovolta rispetto al solito, e per cui dove dovrebbe esserci questo diffusore ci sono invece degli altri componenti, una parte del cambio e della sospensione, che probabilmente renderanno difficile diciamo fare una cosa simile a quella di cui sto parlando, però probabilmente troveranno delle altre soluzioni. Poi è anche bene dire che la Brown va forte perché la macchina è molto equilibrata, cioè nel quadro generale il diffusore io credo che conti se no per il 10%, non è l'elemento vincente di quella macchina, è che la macchina, come tutti hanno ricordato, è stata progettata nel corso di un anno perché la Honda ormai sapeva che nel 2008 non avrebbe avuto risultati e si era buttato sulla vettura 2009. Da secondo te dunque campionato chiuso e titolo che si giocherà tra Brown GP, Toyota e Williams, cioè le squadre che sono partite più avvantaggiate all'inizio di questa stagione? Beh, ci sono ancora 15 Gran Premi. Diciamo che in questa fase iniziale le tre vetture contestate hanno sicuramente condotto delle corse positive. Ritengo che fra 10 corse, e cioè quando ne mancheranno 5 al termine, la situazione potrebbe essere addirittura capovolta. Scrive un ascoltatore: quando le dicono che Buffon è un portiere come gli altri, lei chiuda gentilmente la comunicazione, mi suggerisce Andrea, che è quello che sarei tentato di fare in molti casi, per esempio in questo, caro Andrea. Poi il problema è che non si riesce a chiudere gentilmente una comunicazione, perché una si chiude o non la si chiude e la cosa non è mai gentile. Certo che anche alle fesserie dovrebbe esserci un limite, questo sì, ma ci si fa il callo in tanti anni. Franco da Mantova, buongiorno. Signor Granzini, buongiorno. Niente, volevo intervenire in maniera molto sintetica perché ho ascoltato prima la comunicazione che ha fatto a proposito della conferma da parte di Blanc dell'attuale tecnico juventino, cioè di Ranieri. Io però mi pongo una domanda così: ma siamo sicuri che a sua volta Blanc sia confermato dai suoi maggiorenti, cioè da quelli che lo pagano, in questo caso la proprietà e gli azionisti della Juventus? Perché mi punge vaghezza, come diceva un signore, che la società non sia molto contenta della gestione degli ultimi 3 anni, sottolineo 3, della Juventus, cioè, quindi a cominciare dalla campagna acquisti, ma anche la gestione stessa della faccenda stadio, perché lo stadio può essere una cosa bella finché vuole, ma se ha una squadra che non è adeguata, anche quella è un castello di carta. Viene prima lo stadio o viene prima la squadra? Non lo so, io registro quello che ha appena dichiarato Blanc, poi il giorno che arriverà un comunicato in cui la società dirà che solleva il signor Blanc dall'incarico, le leggerò anche quello. Io sinceramente di più non lo so e nemmeno posso fare. Posso mandare in onda il ripasso di storia, questo sì, curato come sempre anche il 15 aprile da Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 aprile 1989. Al Lisbon Stadium di Sheffield è in programma la semifinale di FA Cup che vede contrapposti Liverpool e Nottingham Forest. Poco prima dell'inizio della gara, 5.000 persone entrano all'improvviso nel settore riservato ai tifosi del Liverpool, scatenando il panico tra i presenti. Le conseguenze dell'affollamento imprevisto sono terribili. Il bilancio finale parla di 96 morti e 200 feriti. È la tragedia più grave nella storia dello sport britannico. E probabilmente non solo britannico, comunque nello sport ad altissimo livello. Mi spiace per Andrea, provincia di Cuneo, che era già collegato, lo ricollegheremo domani. Grazie a Peter Bescapè in regia, a Flavio Suardi in redazione. Vi lascio al giornale radio.